Sezione trentesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto trentesimo. Forse 6.000 miglia di lontano ci ferve l'ora sesta. E questo mondo china già l'ombra quasi al letto piano, quando il mezzo del cielo a noi profondo comincia a farsi tal ch'alcuna stella perde il parere infino a questo fondo, e come vien la chiarissima ancella del sol più oltre, così il ciel si chiude di vista in vista infino alla più bella. Non altrimenti il trionfo che lude sempre d'intorno al punto che mi vinse, parendo inchiuso da quel che egli inchiude, a poco al mio veder si stinse. Perché tornar con gli occhi a Beatrice nulla vedere ed amor mi costrinse. Se quanto infino a qui di lei si dice fosse conchiuso tutto in una loda, poco sarebbe a fornir questa vice. La bellezza ch'io vidi si trasmoda non pur di là da noi, ma certo io credo che solo il suo fattor tutta la goda. Da questo passo vinto mi concedo, più che giammai da punto di suo tema suprato fosse comico o tragedo, che come sole il viso che più trema, così lo rimembrar del dolce riso la mente mia da sé medesma scema. Dal primo giorno ch'io vidi il suo viso in questa vita, insino a questa vista, non è il seguire il mio cantar preciso. Ma or convien che il mio seguir desista, più dietro a sua bellezza poetando, come all'ultimo suo ciascuno artista. Cotal, qual io la lascio a maggior bando che quel della mia tuba, che deduce l'ardua sua materia terminando, con atto e voce di spedito duce ricominciò. Noi semo usciti fuori del maggior corpo al ciel che pura luce, luce intellettual piena d'amore, amor di vero ben pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore. Qui vederai l'una e l'altra milizia di paradiso, e l'una in quegli aspetti che tu vedrai all'ultima giustizia. Come subito lampo che discette gli spiriti visivi sì che priva dell'atto l'occhio di più forti obietti, così mi circonfulse luce viva e lasciommi fasciato di tal velo del suo fulgor che nulla m'appariva. Sempre l'amor che queta questo cielo accoglie in sé con si fatta salute per far disposto a sua fiamma al candelo. Non fur piuttosto dentro a me venute queste parole brievi ch'io compresi me sormontar di sopra mia virtute, e di novella vista mi raccesi tale che nulla luce tanto m'era che gli occhi miei non si fosser difesi, e vidi lume in forma di riviera fulvido di fulgori intra due rive dipinte di mirabil primavera. Di tal fiumana uscian faville vive ed ogni parte si mettean ne fiori quasi rubin che oro circonscrive. Poi, come inebriate dagli odori, riprofondavan sé nel miro gurge e su n'entrava, un'altra n'uscia fuori. L'alto disio che mo t'infiamme d'urge d'aver notizia di ciò che tu vei tanto mi piace più quanto più turge. Ma di quest'acqua convien che tu bei prima che tanta sete in te si sazii. Così mi disse il sol degli occhi miei. Anche soggiunse il fiume e li topazzi che entrano ed escon e rider dell'erbe son di loro vero ombriferi prefazzi. Non che da sé sian queste cose acerbe, ma è il difetto dalla parte tua che non hai viste ancor tanto superbe. Non è fantin che si subito rua col volto verso il latte, se si svegli molto tardato dall'usanza sua, come feci io per far migliori spegli ancor degli occhi, chinandomi all'onda che si deriva perché vi si immegli. E sì, come di lei bevve la gronda delle palpebre mie, così mi parve di sua lunghezza divenuta tonda. Poi, come gente stata sotto larve, che pare altro che prima, se si sveste la sembianza non sua in che disparve, così mi si cambiaro in maggior feste li fiori e le faville, sì ch'io vidi ambo le corti del ciel manifeste. O splendor di Dio, per cui io vidi l'alto trionfo del regno verace, dammi virtude a dir com'io lo vidi. Lume è lassù che visibile face lo creatore a quella creatura che solo in lui vedere alla sua pace. E si distende in circular figura intanto che la sua circonferenza sarebbe al sol troppo larga cintura. Fassi di raggio tutta sua parvenza, reflesso al sommo del mobile primo, che prende quindi vivere e potenza. E come clivo in acqua di suo imo si specchia, quasi per vedersi adorno, quanto è nell'erbe e nei fioretti opimo, sì, soprastando al lume intorno, intorno, vidi specchiarsi in più di mille soglie, quanto da noi lassù fatto ha ritorno. E se l'infimo grado in sé raccoglie sì grande lume, quant'è la larghezza di questa rosa nelle estreme foglie? La vista mia nell'ampio e nell'altezza non si smarriva, ma tutto prendeva alquanto e il quale di quella allegrezza. Presso e lontano lì né pon né leva, che dove Dio senza mezzo governa, la legge natural nulla rilieva. Nel giallo della rosa sempiterna, che si dilata, rigrada, e ridole odor di lode al sol che sempre verna, qual è colui che tace e dicer vuole, mi trasse Beatrice, e disse: mira quanto è il convento delle bianche stole, vedi nostra città quanto ella gira, vedi i nostri scanni si ripieni che poca gente omai ci si disira. In quel gran seggio a che tu gli occhi tieni per la corona che già v'è supposta, prima che tu a queste nozze ceni sederà l'alma che fia giù augusta dell'alto arrigo cadrizzare Italia verrà in prima che ella sia disposta. La cieca cupidigia che va malia simili fatti va al fantolino che muor di fame e caccia via la balia. E fia prefetto nel foro divino allora tal che palese e coperto non anderà con lui per un cammino. Ma poco poi sarà da Dio sofferto nel santo ufficio, che il sarà detruso, laddove Simon Mago è per suo merto, e farà quel dalagna esser più giuso. Fine del canto 30.